qualcuno sul canale 10? CQ canale 10, c'è qualcuno? Ciao Giulio. Chi è, avanti? Ciao Gianluca. Sta facendo male Luca, malissimo. Male? Sta facendo male la radio. Ma la lampadina che su cosa, come si chiama? E usa normale, col microfono normale, basta. Cosa ne fai di questo apparecchietto che ti sei messo, che ti rovina tutte le volte la radio? Abbiamo regolato con Massimiliano, con Claudio. Ma sei sicuro che tutto a posto? Qua io mi sto ascoltando e mi dà tutto a posto. Dipende da cosa stai usando tu. Adesso mi è aggiustata, ma non è che sia così tanto bella. Non è cosa sto usando io, non è questione di cosa uso io. È questione di cosa usi tu. Quel mixer che non serve quattro soldi, secondo me. Usa la radio e il microfono come hai fatto sempre, che esce benissimo. Se fai tocca, vi tocca. No, ce n'è il mixer qua, no. Questo è la radio e il microfono. E allora sono le radio di chi mi ha dato il controllo che non servono, Giulio. Se mi stai confermando così, me l'hanno regolato loro. Adesso l'hai regolata, ma poco fa era pessima. E cosa ti sono con i disegni? Soprattutto quando hai iniziato, era proprio fuori la ragazza di Dio la modulazione. Adesso l'hai regolata e diciamo che è discreta. Non è un granché, comunque è discreta, perché io la sento anche molto rasina. No, solo c'era l'eco e l'ho tolto, capito? C'era l'eco e l'ho tolto, adesso c'è l'eco. Però io mi sto ascoltando, non lo so. Adesso già può andare, dai. Lasciala così, ma non mi dire che stavi uscendo bene prima. Cosa ti so cos'è? Non so con Piccinetto che ti dico una cosa per un'altra. Capita. Non lo so, Guido. Mi sto dicendo, vuol dire che sono le radio altrui che non servono, hai capito? Che Claudio me l'ha dato con l'HF, poi me l'ha dato Massimiliano, anzi Massimiliano me l'ha corretto come doveva essere. E io non ho toccato assolutamente niente. Qua è tutto a posto, al rosmetro, mi sta ascoltando, però bisogna che interpello chi mi ha regolato prima, dai, le dico di buttarci tutto perché non se ne capisce più niente. Adesso stai uscendo bene, ti sto dicendo, forse tu non lo comprendi, ma l'italiano non lo capisci più, ma da un po' di tempo a questa parte tu l'italiano mi sembra che non lo capisci più. Adesso stai uscendo bene, ma inizialmente era pessima, quello che ti sto dicendo. Adesso addirittura l'hai aumentato anche il volume della radio con quest'ultimo passaggio che hai fatto. Quello di prima, il passaggio di prima, me l'avevano regolato loro, capito? Adesso, siccome adesso che me l'hai regolato tu di nuovo, l'ho abbassato perché mi hai detto così, perché non lo tocco io la radio come me l'avevano regolata. Adesso magari entro loro, se ce ne vari, ognuno va a recisuio o giù, e non do conuta, capito? Se quando tocco metto mixer o altro, io lo dico, non nascio dei problemi. Ma se scegli, adesso stai andando benissimo, come devi uscire, insomma, in poche parole. Però prima era proprio, vuol dire che evidentemente qualche cosa avevi toccato senza nemmeno accorgerti, qualche potenziometro, che ne so io, qualcosa del genere, oppure con la radio deve scaldare prima, non lo so. Il fatto sta che prima uscivi malissimo, adesso stai uscendo bene, molto bene. Questa è una mera giunta, è una mera. Normale, l'eco è a 6, senza Roger Bip, e basta, ma è tutto qua. È una mera, Gisluca, è una mera, Non lo so, Guio, cosa me ne affutta a me se te l'hanno regalato e andava bene, ma da voi evidentemente tu l'hai spostato, l'hai toccato, cosa ne so, Ciao Nathalie. Ciao Giulio, ciao Luca, buonasera. E bene, Nathalie, come va? Yes. così ci può essere contento. E come vuoi che vada? Sempre il solito. Funziona quella telecamera. Stavo studiando adesso. Hai fatto bene, devi fare quello che devi fare. Fai bene a continuare, certo che sì. Tu come lo sentivi a Luca prima, inizialmente? No, io ho acceso adesso, l'ho sentito adesso e sta facendo bene, chiaro chiaro. Ci crediamo. Prima non l'ho sentito la verità. Vabbè, allora non fa niente. Sì, ma adesso sta andando bene, gliel'ho detto che sta andando bene. È utile che te l'avevo regolato, quando te l'avevo regolato andava sicuramente bene, non te sto dicendo di no. Evidentemente poi, nel frattempo, qualche cosa è successo, o sposti il potenziometro, o un volume, o un microfono diverso, che ne so. Il fatto sta che stava andando male, non è che io ci prendo soddisfazione a dirvi che sta andando male quando invece sta andando bene. Ci mancherebbe altro, cosa siamo? Bicinetti siamo, non facciamo i giochetti da bambini, no? Avanti Luca. È un macello, Giulio, è un macello. Mi dici, quando te la regolo io, lasciala così, entra là, capi quanto sei scendi male, abbassa, alza, aumenta, pazzo. E io dovete dire sì perché giustamente hanno radio professionali e hanno un altro ascolto. Io uso il baracchino ma ascolta diversamente, ma non solo con me, ne ho sentito con tutti e con tutti, chi prova, fa, chi l'ascolta in una maniera e chi l'ascolta nell'altra. Poi, riprendete dai che sto cambiando la lampadina alla radio, Giulio, riprendete voi. Ok, va bene. Quando stai cambiando la lampadina dello Smith stai cambiando? Cosa stai mettendo? Di quelli normali o di quelli a LED? No, mi sono arrivati i LED bianchi con la resistenza. Siccome provvisoriamente gli avevo messo un pezzo di striscia da LED, no? Adesso sto andando la foto e fa una luce bellissima, però adesso mi sono arrivati i LED, li metto un LED al posto della che c'era prima, che da Voitivo a Bacarezzai, non vorrei avica. Ok, ho capito. Vabbè, ci sono diverse tipi di illuminazione che sono belle, mentre le altre, quelle tradizionali, sono un pochino scadenti rispetto a quelle di oggi. Dai, quelle di oggi sono più belle, più luminose, più chiare, è tutta un'altra musica. Va bene, avanti Natalia. Cosa vuoi che ti dica? Quell'auto lì ci è arrivata. Mi è arrivata l'antenna per la macchina multibanda, è bellissima. Cosa fa? In tutte le bande, oppure 40, 20, 40, 80, cosa fa? È multibanda, fa tutto praticamente, le HF, le V e le U, e 50 MHz, tutto fa. Ho capito, qual è quel tipo di antenna che c'è lo spezzone che lo sposti a seconda della banda che usi? Quella lì, ce l'ha Marcolino anche quella lì. Lei ha detto qualcuno. La Pro X1 è. La Rita ci dice che l'aveva vista il lunedì. E Marcolino ha detto che l'aveva tarata e andava benissimo. Sicuramente sì. No, perché ce ne sono anche addirittura che fa 9 bande, compreso anche la 27. C'è quel tipo di antenna. No, funzionano bene quelle, certo che funzionano bene. Fanno anche nel ben collegamento, perché mi ricordo una volta con un amico lì al quadrato ed era con quell'antenna e usciva benissimo in 40 metri e ascoltava anche molto molto bene. Lo so, anche questa va in 27. Sì, dovrebbe fare, se è quella che intendo io, fa 9 bande, fa, partendo dalla 27 e arriva in alto abbastanza. Lei in tutti i posti va, con un'antenna solo fai tutto, solo che è un bel longa, ma Marasucci. Mi vola in trasmissione, però una ricezione mentre la trovo da Marcolino, a voi mi darà risposta. Cosa, Claudio? Io non lo so, no, quella che avevo visto io, aspetta, chi è che ce l'aveva? No, ma non c'è più frequenza, quell'amico che si intendeva anche di radio, non mi ricordo come si chiama, vabbè, dai, forse già mi avete capito. E avevo fatto un collegamento lì dal quadrato, con quell'antenna lì che faceva 3 bande, lui aveva fatto un bel collegamento in 40 metri e andava molto molto bene. Avanti Claudio. Sono una scoperta. Ricordi Natalino che una cosa che fa tutto non fa niente. Io 5, uno stilo per i 40, uno stilo per i 20, uno stilo per i 15, uno stilo per gli 80. Hai capito? Quando un'antenna 5 fa di tutto, non fa di nulla. Se vuole fare in trasmissione con un'antenna del genere, in ricezione, va bene, come quella cagata che ho comprato io della pizza proprio doppio 5 band. Ricezione, poi sono andato a trasmettere, non arrivi a dare un grano andrica, la giubilata è fatta a pezzi. Buon divertimento a tutti, ci sentiamo. Ciao, ciao Claudio, buon ascolto, dai. E vediamo un po' come va, va tarata, va. Marcolino ha detto che andava benissimo, anche in trasmissione. Avanti Luca, e poi te dai la lampadina. Siamo andati là poco giù, sta facendo l'acqua. Ah, vabbè, il telefono ce l'ho giù. No, ce l'ho lontano, non ce l'ho vicino il telefono, dopo lo guardo. Va bene, va bene. Avanti, Natalie. Sì, calma. Già quello spezzone c'ha che vuole se che va collegato praticamente, ma alla base ci sono gli affari per cambiare banda, no? Da lunedì è di lusso. A giovedì. Mi hanno detto che va un bel bene, ce l'ha anche Antonio quell'antenna. Quello ci sta insegnando. Funziona benissimo lì. No, io non ci posso dire niente perché, ripeto, non ce l'ho mai avuta e allo stesso tempo anche avendocela non potrei nemmeno usarla in certe frequenze, chiaro che è malo motivo. Per cui io intendevo quell'antenna che ha delle varie prese, allora tu c'è una specie di cavo che c'è lo spinotto, lo prendi e lo sposti nella banda che ti interessa. Quella che intendevo. Poi se funziona male io non ti posso dire niente in merito, perché ripeto, no, prima di tutto perché non la puoi più usare e secondo perché non la conosco bene, insomma, ecco, l'ho vista solamente tutto lì, niente di più. Ma se Claudio sta dicendo che in trasmissione non è un granché, io credo quello che mi dice lui, perché lui sicuramente l'ha usata e la può usare quando vuole, è quello che intendevo. Ehi, lo so, ma c'è gente che ce l'ha e mi ha detto che funziona bene. C'è uno spezzone che va collegato dalla base a praticamente lui si collega alla lunghezza della carica che ha quell'antenna, capito? E quindi varia la frequenza. Poi va tarata giustamente, no? Per poter trasmettere. A me non me ne frega nulla per il momento. Ce l'ho lì, mi devo fare anche la base magnetica adatta per poterla usare. Sì, beh, certo, quella potrebbe andare bene, spesso perlomeno, adesso io non vorrei sbagliarmi, ma penso che vada bene, questo mai ce lo conferma Claudio se ancora l'ascolto, ma al balcone così, come ricezione, Claudio ci sia ancora, mi puoi rispondere a questo particolare? Sì, se ha un buon piano di marcia può anche andare bene. Ok, ho capito. Va bene, avanti. Luca. Luca deve essere col saldatore in mano, deve essere. Che sta cambiando quella lampadina. Ma stava dicendo che l'aveva messa, dice che mi ha mandato anche la foto, ma non la posso guardare perché il telefono ce l'ho abbastanza lontano, no? In questo momento non mi sposto. Va bene, dai, comunque, andrà bene. Ebbene Claudio, ma dimmi una cosa, ti sento un po' così, un po' giù, cos'è? Ma ti senti bene o hai qualche problemino? Non mi risponde, forse si è allontanato. Avanti, Natale. Evidentemente si è allontanato. Sì, in ricezione va bene, non va né tarata né nulla. La metti lì e riceve. E anche bene riceve. Io per esempio ce l'avevo così con una staffa attaccata al tubo dell'antenna. E ricevevo bene con quella della macchina. Adesso proprio con questa qui almeno puoi ascoltare bene con quella. Ok, ho capito. Però non mi ricordo, Natalia, se quel tipo di antenna, adesso non mi ricordo perché è passato tanto tempo, se era attaccata sulla base cellulare magnetica o se era direttamente sulla, sulla capota della macchina, perché ripeto, l'avevo sentita e mi era piaciuta nel momento, un inquadramento perlomeno, sentivo molto bene e anche lui ha trasmesso abbastanza bene. Però non mi ricordo, come stavo dicendo, se era montata su una base magnetica o direttamente nella tettoia nel tetto della macchina, non lo so. Sì, sicuramente sulla base magnetica, e poi quella è usata da fermo, perché è un'antenna ben lunga, mamma mia, io l'ho vista, l'ho vista questa che mi è arrivata ed è un bel lunga, è molto più lunga di quella della 27, e poi c'ha una base grossa, tu lo devi vedere com'è. E c'ha questo spezzone per cambiare banda, si collega a vari punti della carica. Sì. Poi se puoi mandami la fotografia, okay? Per vedere se è la stessa che avevo visto io. Ce l'aveva, come aiutami a ricordarmi chi è. Ti ricordi quel tipo che aveva il laboratorio lì a Lunesole anche, un radioamatore, che non lo sta facendo più credo, il radioamatore, che aveva cambiato mestiere anche, era un radiotecnico credo che fosse. Non mi ricordo più come si chiama, o Natalia, te lo ricordi tu? E forse stai dicendo a Massimiliano, ti ricordo in quelle... Esatto, bravo, sì, adesso mi hai fatto ritornare la memoria, sì, Massimiliano, lui l'aveva utilizzata, io l'avevo vista, e devo dire che perlomeno con l'allenamento che ha fatto era una bella giornata anche, la verità, eravamo in estate, eccetera, al centro della piazza lì al quadrato, e aveva fatto un bel collegamento, la verità, mi era piaciuta, però poi da quel questo istante a voi non ci sono più niente io con l'antenna, no, non lo so, vabbè dai, Luca ci sì, Luca non riprende, vediamo se è rientrato Claudio, ci sì. Qua ci sono io, dai, buonasera a tutti. Ciao Carlo, ben entrato, buonasera. Buonasera Natalino, Giulio, Claudio, non so chi altro ci sia, Luca, eccetera. Adesso sto modulando con un watt e mezzo, come mi sentite? Io ti sento bene, Santiago 9-10 dovresti essere più o meno, va bene, la radio è buona, non ho niente da dire, va bene Carlo, riprendi. Perché mi hanno detto che sta entrando nelle casse del computer di qualcuno qua nel condominio e quindi sto provando adesso in AM a uscire con pochi watt per vedere se il disturbo lo creo ancora o meno, però diciamo qua è tutto in regola, l'antenna è in regola, la radio è omologata, è in regola, ha giocato tutto l'equipaggiamento, per cui non mi possono dire niente, si adeguano a loro con le casse nuove. Infatti bisogna vedere come sono, che tipo di casse sono, se sono quelle cinesine o meno, o qualcosa del genere, comunque. Anche con bassissima potenza, se uno riesce a farsi ascoltare va bene ugualmente, a me personalmente non mi interessa sentirti per dire che sono io con un segnalone, basta che ti sento, mi va bene così, come faccio io lo stesso già lo sai la potenza che sto usando, ho la potenza minimissima, per cui meglio di così. Vai Natalia. Ho scattato una foto alle istruzioni in italiano che mi ho scaricato, è in tre pezzi l'antenna praticamente, aspetta un attimo che te la invio. Va bene, quando sei pronto la salita, se me la vuoi mandare, mandamela, se no va bene lo stesso, non c'è problema. Luca, sei rientrato? No, non vedo, vabbè comunque. Scusa un attimo Carlo, intanto riprendi nel frattempo. Ok, intanto io sono qua, ho acceso qualche minuto fa e vi ho sentito chiacchierare, anch'io stavo provando una cassa esterna qua per vedere se creavo disturbo più o meno e in effetti con le casse nuove ho messo messo la soundbar, quella del televisore, ho provato a modulare anche con più di 5 watt e sono andati in SSD che me ne fa 18 di watt questa radio e non mi crea disturbo a me, non entro nelle casse di nuova generazione. Evidentemente sono casse vecchie quelle che stanno usando, di quei computer fissi diciamo, e non erano né schermate bene né niente, quindi o è roba di cineseria e niente. Comunque adesso tanto per la città va bene un watt e mezzo, 2 watt già va bene. Sì, beh certo che va bene, come no, va bene sì, se riesco a sentirti abbastanza bene, per cui suppongo che anche tu senti a me bene lo stesso, o perlomeno suppongo che anche Claudio poc'anzi ne ha risposto, vuol dire che già mi sente, perlomeno la giornata non è piena di grande QRM, oggi dovrebbe andare bene così, va bene dai, andate lì. Inviatalo anche a Carlo e così la vedi qual è. Ok, dopo la guardo Natalia, dopo la guardo, tanto il tuo WhatsApp ce l'ho nel tablet, per cui dopo lo guardo, ce l'ho sempre lontano, non ce l'ho vicino, vabbè dopo lo guardo, grazie comunque. Cosa dire Carlo, tutto bene comunque, no? La salute, tutto a posto, tranquillo e pacifico. Sì, sì, giovedì praticamente c'ho la visita di controllo, mi vuole vedere il medico, ieri mi ha chiamato a chiedermi come andavo, gli ho detto tutto bene, quindi mi vede giovedì e niente, poi sabato rientro a lavorare, mi scade la malattia venerdì, quindi sabato rientro a lavorare di pomeriggio. Ok, va bene, dai. Interessante aver risolto un problemino che c'era, e anch'io già lo sai, ogni tanto devo fare il tagliando, per cui non c'è da meravigliarsi, vabbè, non è che abbiamo la stessa età, ce ne finco 20 anni più o meno, per cui è anche plausibile questo discorso, però io anche tempo fa, 20 giorni fa ero anch'io in condizioni un pochino così e dunque sono dovuto ricorrere dove dovevo andare, per cui e nonostante tutto che non c'ero, arriva un amico che ero lì e fa ma tu, dice, qua da quando sei qua? Io sono qua da venerdì. Eravamo in domenica, ascoltami, eravamo di domenica, dice no perché ti hanno accusato che hai messo la portante, io se sono qua recuperato da venerdì, per dire, no, sono stato 15 giorni per dire no, cos'è l'altro mondo, a me i miserabili sai quanto me l'hanno fastidio, non hai idea o Carlo. A volte lo fanno anche per provocare eccetera, tu figurati, tu sei un tipo che mette portante, no? Non credo proprio, no? Con l'esperienza che hai di radio, figurati se ne hai visto di scocciature e di scocciatori in tutti questi anni di radio, quindi fregatene Giulio, e a volte succede e bisogna passarci sopra. Ma io ci passo sopra certamente, perché non siamo degli stessi bassi fondi come quella persona lì, lui che la mette la portante, non certamente io. Tu pensa, questo è venuto a fare visita ad un'altra persona che c'era lì nella stessa stanza e dunque mi ha visto e mi ha detto esattamente questo quello che ti sto dicendo, per dire no, ma comunque lasciamo perdere, a me intanto i miserabili io li piscio in faccia quando voglio, avanti Natali. Infatti c'è il momento, Carlo, vista là quell'antenna. Natali, ma spiegami una cosa, ho capito ci sono 3 spezzoni, ma c'è anche un cavo di connessione per, da un'antenna all'altra? Eia? No, uno entra dentro l'altro, poi c'è una spezzone di filo per cambiare banda, capito? È un'antenna multibanda questa. Il cavo di connessione è solo per connettere le diverse bande. Parlano di un passaggio. I 3 spezzoni entrano uno dentro l'altro, infatti è un bel lunga. Sì, ho capito, però mentre funzionando, il cavetto deve essere collegato, è quello che ti voglio chiedere, Natali. Ma il cavetto va collegato, in quello spezzone nero va collegato, capito? Sì, ho visto. E sicuramente quella va bene, diciamo, impostazione mobile, ma magari anche stando fermo o camminando piano, perché col filo collegato io non lo so se mi crea problemi con l'antenna, capito? Magari da fermo, magari in una postazione elevata con la macchina, penso abbia anche delle buone prestazioni. Ma la proveremo quando sarà il momento. Cosa vuoi che ti dica? Io so che c'è gente che la sta usando e va bene come antenna, capito? A me mi hanno detto così, è per quello che me l'ho comprata. Adesso gira gli faccio una staffa e me la metto nella finestra, tanto per ricevere. Ho capito, non lo so così la resa, se sia anche se sia buona. E poi quel tipo di antenna lì ha bisogno di una base magnetica con quell'attacco lì, che ha quelle caratteristiche lì, capito? Non ha il galletto con la chiavetta da chiudere, ma si deve avvitare, mi sa. Ehi, con l'attacco a pelle. Infatti adesso una base bella larga me la compro, come quella che ho io per la 27, e gli faccio l'attacco a PL e la metto lì, ma altro ci vuole. Non ci vuole niente a farla. Quell'altra che ho per la 27 non la voglio smontare, se no l'antenna della 27 non la posso più usare, capito? Potrei anche farlo, perché intanto non è che ne uso io in macchina. Ho capito, del resto chi ha questa passione deve sperimentare, quindi ben venga la voglia di ogni tanto di fare qualche acquisto così per provare, poi magari ti può piacere, può essere utile o no, però almeno ti togli anche lo sfizio e ti è passato anche un bel po' di tempo, capito, a provare, dai, e il gusto è anche quello, Natali. Infatti il gusto è quello. Quando sarà il momento faremo le nostre sperimentazioni, dai. Certo che è un'antenna pesante ed è meglio usarla quando sei fermo, non quando stai camminando, perché secondo la base magnetica che è, si può staccare. È successo a Gianni con l'antenna della 27, figurati con questa. Ho capito Natale. Va bene, vediamo Giulio se c'è ancora. Vai Giulio. Sì, ci sono e vi saluto, però dai, adesso vi lascio e vado a farmi un giro. Così faccio due passi, ci sentiamo. Ciao Carlo, salutoni, grazie per la chiacchieratina, ciao Natalino, grazie anche a te, a Luca se sta ancora ascoltando, salutoni anche a te Luca, Claudio se si ancora ascolta, salutoni anche a te. Io chiudo, ascolto il vostro finalino e poi chiudo, vado a farmi due passi, così almeno sgranchisco un po' le gambe. Vai Natalino. Va bene, grazie allora per le quattro chiacchiere Giulio, ti auguro un fine serata, un buon tutto, alle prossime, allora ci sentiamo, Carlo avanti per il finalino. Ciao Giulio, ci sentiamo alle prossimine. Natalì, un attimo di bianco devo fare, che mi hanno suonato al campanello. Vabbè, Luca avanti se ci sei. Carlo, sei rientrato? Luca? Ma tutti spariti. Il quadro. tutti spariti siete qua? Non essere... Canale 10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno qua? La nuova contesa che riguarda... Mangiando, finito adesso. Ma che è che adesso? Le 7 e un minuto. Si è dovuto parlare dal dottore perché non aveva voluto fare l'impegnativa per la fisioterapista. E oggi glielo ho detto, lui mi ha detto che praticamente non lo fanno prima, perché è come dare i soldi a uno che non ha lavorato. Capito? Ma me com'è? Aspetta, ma non c'è abbastanza quella televisione, io non, che non capisco nulla. Un attimo già. Senti, abbiamo televisione della voce tua. Dimmi già, cosa stavi dicendo? Ti stavo dicendo che l'altro giorno sono andato dal dottore e mi sono fatto fare il foglio di un ricovero e quello che sta anche quello per la fisioterapista, come mi avevano scritto all'ospedale. E non me l'ha voluto fare, mi ha detto che lo faceva più là, che tanto c'era tempo. Vabbè, oggi sono andato, ho aspettato più di un'ora e mezza. E quando sono andato dentro glielo ho detto, lui mi ha detto, non l'abbiamo fatto perché a un collega di successo che l'hanno chiamato dalla SL perché ha fatto il foglio prima di fare la fisioterapia. È troppo presto, troppo anticipato. Ed è la stessa cosa che tu stai pagando a loro prima di fare il lavoro, che lo dai per scontato, poi magari non lo fanno e tu glielo paghi lo stesso, capito? Sì, ho capito. Antigosi. Sì, ma me l'hanno detto dall'ospedale, ci sono dottori che sono così, che non ne fanno, capito? Non lo fanno perché pensano così e non ne fanno. Poi dice lei, si sta perché noi dobbiamo chiudere la cartella e dobbiamo avere. Vedo gasotto. Da lì, uscire. Andare. Via. Cosa vuoi che ti dica, Natali? sempre a noi tocca attribuire, e poi con quelle due stampelle non puoi fare niente, cazzo, non puoi tenere nulla in mano, lui è un casino. Sì, me lo posso immaginare, Gesù Cristo mio, il primo ti lo portiamo in testa, non manco di noi di Barecci. Sì, ma infatti, prima è migliore, non mi sembra vero qua. Tutte le notti mi saltano, cazzo, cerco di rompigliarlo, lui che qui arrivano alle 4 di mattina, due ore dell'altro mondo, e non devo prendere per forza. Lo so. Ho mandato quel foglio, leggi tutto quello che fa, che c'è scritto. Sì, ho letto tutto. Solo che è poco e lunga. Lo so. C'è un po' di roba, devo fare anche il tampone adesso. Adesso quando il giorno del ricovero mi fanno il tampone. Ah, ti piace Longa, a Natale di la verità. Mi è arrivata mi, Marco. Buonasera a tutti, avete parlato in due, è arrivata? Sì, è lunga, per gli 80 metri sono 1,84 m. Io già lo so, già c'è nelle spiegazioni, mi ho scaricato il coso in italiano addirittura, il foglio delle istruzioni. Forse ci siamo capiti male, Marco. Vuole dalla base al primo coso, al primo buco per i 40, così è. Sì, sì, tu conta dal basso, il primo che trovi è il ponticello comune, cioè il primo foro, dal primo al secondo per i 40 metri. E allora ho capito bene, l'ho messo così. Sì, tanto te ne accorgi perché la ricezione è compromessa. Riprendi Gianni. Ciao Marco, ben sentito, ho portato te, come va? Male già. Malighingi, così, mamma, un po' stesso così, e quindi ogni adivine una, dai, però tiriamo avanti, tanto mia, mi sa che è cosa comune. Io sto partendo per la gamba, va, tu eri dell'altro mondo, è insopportabile da gridare. Ma quella dell'operazione o l'altra? L'altra che mi devono operare adesso a giorno. Ma per lo stesso motivo, per mettere la protesi. Minchia, io credo che avessi solo una gamba con quella cosa lì. Anche mamma le deve fare tutte e due, ma tra Covid, malighingi, è un problema, piastrine basse, è un problema, stiamo rimandando all'infinito, e questo Covid ha rovinato un po' tutto, mi ha ritardato a dismisura tutte le cose da fare, tutte. Lo so, oltretutto ha fatto fallire un po' di gente che ha chiuso negozi, alberghi, ristoranti, un po' di tutto. Adesso si è messa anche la luce a aumentare, così ne farà chiudere tanti altri. Sì, lui se non pone in mano subito a fare una regge come ti si tocca, vedrai succede la guerra civile qua, perché chiudono tutti, non ne possono più. Sì, forse ci vogliono portare una guerra civile, non lo so, qualcosa del genere. Non sono contenti, no. Vabbè, a parte che il prezzo del gas lo decidono a tavolino da Amsterdam, solite cose, no? Decidono, oggi lo facciamo pagare poco, domani quattro volte tanto, la corrente è lo stesso, e poi se tanto la gente paga, se vuole la luce paga, se vuole andare in macchina paga, se vuole il riscaldamento paga, capito? Finché ce n'è poi. Dai, riprendete che sto mettendo a posto la spesa. Ben Natale. E capra, e così è già, siamo messi male. E se chiudono le aziende, ci sono tutte le famiglie sull'astrico, cosa vuoi che non si girino quando succede una cosa del genere? Oi, siamo messi proprio male. Io sono molto preoccupato, guarda. Ma secondo me ci stanno aggiustando per crearci questa tensione addosso, prima con una cosa, poi con l'altra. Ci stanno aggiustando un po', non lo so. C'è qualcosa che non mi quadra. Guarda che quando la gente sa come dare a mangiare i figli e la famiglia, si gira, è male pure. Guarda che qua siamo a livello di guerra civile, mi. Se uno ha una pensione di 400 euro al mese, gli arrivano 700 euro come con la donna che hanno fatto con la televisione, di luce da pagare, tra luce e gas, 700 euro non ce la fa più. E infatti, ti voglio vedere. Una donna anziana, capito, una donna anziana che vive è sola, infatti il figlio ha detto ma è possibile che mamma consumi tutte queste cose qua, boh. Ma cosa consuma il viso Giostrelli? Stanno speculando a nastro, aiuto, i ubriachi si sono buttati tutti in carriera. Ma è possibile che non ci sia nessuno che li possa mettere un freno a questa gente? Che li possa mettere un freno? L'hanno fatto loro quello che vogliono e non c'è qualcuno che li possa bloccare. Il governo li deve bloccare e pigliarli di tutti i suoi guadagnesi. Tutto. Se no in galera è chiusi. Subito. Sì, ma il governo tanto è fantoccio, deve sottostare all'Europa, che deve sottostare a mezzi, a cose ben più grandi di loro. È tutto concatenato. Mica la Germania ha messo 200 miliardi sul tavolo e a cantubare i tedeschi non sono contenti di matessi e chi si ribuccia, vedrai cosa succede. Poi adesso vogliono togliere, o meglio non togliere, vogliono ridimensionare il reddito di cittadinanza, adesso ti spiego in breve. Io conoscevo gente, parlo di una coppia in particolare, no? Che campava benissimo, per legge rientrava sì nei parametri e quindi hanno avuto reddito di cittadinanza, però loro campavano bene, cioè allora a cosa è servito il reddito di cittadinanza? A mangiare gamberoni tutti i giorni, non funziona così, lo devono dare a chi non ha da mangiare, chi proprio non ha da mangiare, devono abbassare il massimale del reddito, capito? E dallo solo proprio chi è nella cacca a me. E infatti, solo a chi, alla gente bisognosa devono darlo e basta. Sì, sì, non per far mangiare gamberoni tutti i giorni, o quasi. Devono darlo proprio chi è nella cacca a me. Tipo quelle povere anziane che non hanno... c'hanno 400 euro di pensione, gli arriva la luce a 400 euro, cosa fanno? Pagano la luce e cosa mi mangio? La bolletta mi mangio, la ricevuta della bolletta mi mangio. Mamma mia, che roba brutta. Già ne riprendi. E c'è chi deve pagare il mutuo, c'è chi deve pagare l'affitto, non è solo la luce, no? Ci sono altre cose, c'è il condominio da pagare, ci sono le spese fisse. Mia, una curiosità, volevo chiedervi, Carlo è più entrato in frequenza? Mia, avete parlato in due o copiato, è entrato l'altro giorno? Anche lì volevo chiedere qualcosa riguardo al 110% che lui credo abbia già attivato anche lui. Va bene, quando lo sentirò glielo chiederò. Riprendete. Ho detto che c'era poco fa, lui gli hanno suonato il campanello e non è più rientrato. Ah, poco fa, perché avete parlato in due, fino a poco fa, vabbè, già mi capiterà. Così da anche qua stanno procedendo. Che poi mi questa roba che mettono, queste lastre, io credo fosse roba materiale composito super tecnologico, moderno, ma qua c'è del fottuto polistirolo imbevuto di grafite. Sono come lastre di polistirolo espanso con delle grafite nerastra disciolta in mezzo, capito? A Palermo il vento che ha fatto ne ha stracciato tutto qua, dalla paradiso. Come già, ne è caduto tutto quanto? E allora, l'avevano fatto da poco, avevano messo l'impermeabilizzazione, il vento, non so che cosa, deve essere riuscito a passare in qualche filtrazione che c'era e praticamente è caduto tutto il coso che hanno fatto, l'impermeabilizzazione, il cappotto, come lo chiamano. Sì, sì, ho visto online qualcosa per il vento, roba del genere, ma quelli sono errori gravi, è proprio roba fatta non a regola d'arte, piazzata male, perché ho letto ci sono un sacco di requisiti, cioè un sacco di errori che puoi fare posando quella roba lì, deve essere fatto proprio a regola d'arte, se no è un casino. Ma poi chiedevo io, ma questa roba non è infiammabile, c'è grafite in mezzo, ma io vorrei prendere un pezzettino e provare a dargli fuoco, a vedere se piglia, se brucia. Che filo? No, un pezzettino tagliato, no. Ci metti che c'è qualche cosa mancante, gli dà fuoco, piglia fuoco per il palazzo. Non lo so, comunque se l'avessero interrotto il 110%, non so come sia andata la situazione. No, vabbè, qua sta andando avanti. Adesso per i nuovi accordi vogliono fare allora chi ha iniziato già il 110% va bene, però chi lo dovrà fare in futuro sarà solo all'80%, mi pare. Non so, ho letto un articolo sporadico, ho letto solo il titolo peraltro. Perché tu immagina se tutta Italia davvero si rifà i palazzi, si fa il cappotto, l'infissi, tutto quanto, ma è solo da dove cacchio se li leva, che c'è la sanità che in condizioni miserabili, la scuola pure, cioè mi pare strano a me. Comunque relativo al lavoro nell'edilizia fa guadagnare l'edilizia ancora, perché l'edilizia era ferma. Non so come sia già. Bene, Natali, riprendete voi, che io sono, mi devo riposare, che sono distrutto dalla fatica. Vai, tu guardi anni di cappa, non sono d'asso, distrutto, poverino, curareggi. Ha portato blocchi di cemento per fare le piramidi, Natali. No, a parte che io, c'è sempre quella cosa di fondo mia, che in 7 giorni è veramente... sì, disabilitante, proprio, vabbè, è un discorso che abbiamo già fatto, no? Perché tu devi andare dall'asino della Crucca, vedrai che dopo ti passa tutto, e sei bello arzillo. Marco, ma l'analisi fa? No, non più già, ho finito di fare analisi perché tanto era tutto regolare, sangue, coso, e non so cosa pensare. Comunque qualcosa di muscolare c'è. Perché non è possibile, non è possibile. Però mi non voglio parlare di malanni al baracchino. No. Se cominciamo a contarci i malanni al baracchino, guai, non finiamo più. E potrebbe essere anche mancanza di ferro. E quella è carenza di figa. E infatti, quello che volevo dire io era. Mi hai tolto le parole di bocca, carissimo. Ricordati, quando c'è quella sei più motivato a fare tutto, alzarti, a fare coso, tutto, ti tiene più attivo, capito, quella cosa summenzionata. Quello sì, lo so, ti dà la carica. Tarà, tarà, tarà, tarà, tarà. Ecco, già nel caldo deve dire la sua. Dopo... di questa sofferenza non è... Gianni già si è sempre trattato bene da quel punto di vista, dai. E allora, quello sì, ma te lo puoi immaginare questo Gianni, è una scena, vecchiano, stiamo a tal... già me ne sono accorto. Che cosa? Che sto invecchiando, che cosa? Mi produce riccio, mi fai da bravo. Non so, comincio da... sono grande ma non vecchio, ce l'ho appena 62 anni. Stai invecchiando anche tu. Solo già, credo di più, credo almeno 65. No, che è più piccolo di me già. Per l'anagrafe, poi ne fa due di me. Dimmi ne danno di me, ma che tu me ne danno di più. No, sai cos'è già? Che io quando vi sentivo al baracchino, io ero 13enne, 14enne, quindi siccome gli anni ne sono passati parecchi, cioè non sapevo che età avevate all'epoca, ancora siete sotto i 65, ma è Natalino lo stesso o li ha pareggiati e superati? Beh, io sono detto che avevo 17-18 anni, mi manca. Ah, eri giovane, caspita, appena maggiorenne, adesso pure. E tu, Natali, si può dire? 65, io sono del 57, classe de vero. Quante Walter sono io, uguale. Quel diabolico, te lo immagini? Peraltro io quando ero entrato nell'84 a 13 anni non ero in età da concessione, ero abusivo, capito? Per metà anno ero abusivo. No, per un anno ero abusivo. Poi agosto dell'85, infatti 14, rientravo nella concessione, ero inserito anche. Ma vabbè, si poteva entrare anche minore, non bastava che mettesse la firma planale. No, non inferiore ai 14 anni, doveva dire almeno 14, non di meno. Ah ecco, tu li avevi di meno. Sì, sì, ma lo ricordo, c'era scritto nella vecchia concessione quella roba lì. Io l'ho conservata, è una reliquia. poi 10.000 divieti, hai visto? C'era un foglio di, della concessione, dove poi tutto il resto erano divieti, era vietato fare il tutto, ma poi anche tutto ora, non è che... No, adesso concessione non ce n'è più, caro lì, possiamo fare quello che vogliamo. Natalie, no, non è così, hanno abolito solo la domanda e i 12 erano a fare, in tutto il resto rimane uguale, ci mancherebbe. Maledetto, sei un disfattista. Immagini, devo fare un esame, la domanda gli dici così, possiamo fare quello che vogliamo in 27, che non rientra naturalmente, ma te le immagini, bocciato per quella domanda lì, per quella risposta, mamma mia, guai a temi. No, ma io vado con la Glock, questa volta me la devono dare per forza, se no gli sparo in testa. È come Michele Placido in Pizza Connection, vabbè, lui aveva un concerto, vai lì. Io pensavo, poi sul tavolo, boom, e dici, devo pigliare la patente, sono venuto a conseguire la patente. No, sono venuto a ritirare la patente, e boh, cosa a conseguire? Ascolta, normative come si è messo, mi raccomando non curare troppo una cosa e trascurare l'altra, cioè devi essere preparato un po' in tutto. Io da mo' che sono preparato. Diciamo che eri già preparato dal vecchio esame, siamo perdendo. Infatti. Dai, e quando lo fate? Che giorno è la... Il giorno non lo so, a novembre, dal 14 al 18 li fanno, online. Ma dalla sede li fanno oppure a domicilio? Non lo so ancora, deve decidere il ministero, ci farà sapere. Però ancora devono completare la lista dei candidati. Io ci sono già perché l'ho già vista online, perché l'ho mandata un mese prima della scadenza e c'è il mio nome in grande la Sasa di quanti siete? E pochi, eravamo 15 e siamo ridotti a 6 perlomeno nella mia sezione. Poi non so se va qualche altro. Non stanno più venendo alcuni. Ma perché hanno mollato? Sì, hanno mollato, hanno visto che è un bel difficile e hanno mollato un bel di gente. Specialmente di Sassari. Sì, solo siamo, che dobbiamo dare l'esame. Non è difficile, è solo questione di memoria, memoria, memoria. Sì, è un bel difficile. È difficile perché è molto ampio il programma, capito? È molto ampio il programma, è difficile per quello, non per altro. Appunto, è una questione di memoria, sono molte cose da nozioni da acquisire, regolamenti da ricordare, a memoria, eccetera. E vabbè, dai. E lo so, cosa vuoi che ti dica Marco? Le normative... Ce ne sono tantissime e io le so, però bisogna vedere gli altri e lì sono severissimi, perché se non sai le normative, se vutidu, lì sono severissimi veramente per le normative. Perché figurati adesso, prima te la davano se eri un tecnico o qualcosa, te la davano senza esame, adesso no, devi fare l'esame per le normative, hai capito? Se tu non sai le normative non ti indagini, puoi essere pure un ingegnere, non gliela frega nulla, hanno introdotto questa regola qua e non c'è nulla da fare, devi dare l'esame per le normative. Se tu sei un tecnico, un ingegnere elettronico, qualcosa di equipollente per non dare l'esame di elettronica, capito? Però le normative le devi sapere, ed è giusto che sia così. Ui, ripeti equipollente, che mi eccita. Equipollente. Uia, uia. Anche l'orgasmo hai avuto. Mi piacciono questi termini tutti eruditi. Allora, ciò vuol dire che non sono tonto, che qualcosa la so. No, ci mancherebbe, mai detto. E poi è una questione di capire, più che altro ricordare, andare a ricordare, io purtroppo l'abbiamo detto, mia. Secondo me ha influito anche quella cosa lì, quell'ultima cosa lì. però la mia memoria non è più quella di una volta, anzi sto perdendo colpi anche. E Gianni, riprendi. Perché quando chiedi la mente allenata è un'altra cosa, se stai anni e anni che non studi, che non tieni la mente allenata, devi ricominciare da capo, c'è poco da fare, hai perso tutto l'allenamento che c'hai mentale. Sì, è vero, già, bisogna fare allenamento anche a livello, che ne so, parole crociate, sudoku, tenere la mente allenata in queste cose qua, che, per cui devi ricordare anche termini o roba del genere. Però se non fai nemmeno quello, io non l'ho fatto e quindi... vabbè. Si dovrebbero rendere conto che siamo lontani dai banchi di scuola da 40 anni, però purtroppo è così. Le elettronica poi guarda, è una cosa vasta, le normative, c'è di tutto e di più. Tutti questi conteggi che ci sono, Oh già, praticamente al baracchino puoi parlare col muro, non entra più nessuno, se si prima non ti dà patente. No, balle sono, io entro, non me ne sbatte nulla, a costo di non entrare di là, però perché per me è solo una soddisfazione, hai capito? Io entro in 27, cosa me ne sbatte? Perché non devo entrare? Mi applicherò di meno alle altre frequenze quando potrò, la farò l'attività, quando non posso non la faccio. I grandi radioattori di Sassari rientrano anche in 27, entrano anche sul 20, devo salutare qua, quindi qualcuno c'era magari che anche in passato diventava radioattore e la 27 la ripudiava, vabbè. Molta gente l'ha ripudiata, si credono di essere un gradino più su e loro della 27 non ne vogliono più sapere. Ma cosa? Io sono nato CB e morirò CB. Sì, poi purtroppo alcuni praticamente non avevano fatto attività, io mi ricordo 40 anni fa, per esempio Primero, no? Carlos, lui sognava la 144 come diceva lui, però poi non ha più, cioè è scomparso anche da lì, è scomparso da tutto, non ha portato avanti lobby, è un peccato però. E così secondo me anche altri, della vecchia guardia mi. Ehi sì, poi finisce che non entrano né qua e né là. Peccato però, perché ci sarebbe più gente, più attività, più roba da sposare per noi, vabbè. Bene, riprendete voi due, io vado a bere e poi faccio altro. Gianni, riprendi, cuore X per me. Gianni, addormentato ci sì. Gianni, siamo rovinati. Qua sta andando tutto bene, Natalì, sto usando quel baracchino impolverato, il presidente, quello piccolino, ha solo MFM. Sì, già va bene, a voglia se va bene. Sto aspettando che mi arrivi la tastiera del computer, che così ne ho due, c'ho il fisso e un portatile, è bello quel portatile, me l'ha venduto il dirimpettaio. Ci vuole solo la tastiera, gli ho messo il sistema operativo nuovo, è un i5, c'ha 8 giga di RAM, bellissimo, tutto mimetico. Un i5 di quale serie? Adesso dovrei accenderlo per dirtelo, comunque è bellissimo, è un bel computer. Poi mi serve il portatile, capito? Così funziona la batteria, tutto, capito? Io. Il portatile è comodo perché lo porti in ogni camera, lo porti fuori. Io fissi non credo ne prenderò più, troppo statico, troppo pesante, poco versatile. Se devi cambiare un componente, in certi è drammatico dei portatili, certi hanno addirittura la RAM, i piedini della RAM saldati, capito? E quindi se lo porti al negozio di computer, loro non te lo risaldano nemmeno, quello fa un tecnico, elettrotecnico, ma praticamente le lame lì le sfilano e le mettono a pettine, non infilate così, quindi sono saldate. Dico, ma non si può cambiare, in realtà basta disaldarla e mettere la nuova. Però non capisco il perché di fare queste zozzerie, saldare la lama. Se si brucia, lo sai, non è una rogna, è una rogna in più comunque. Io lo so cosa vuoi che ti dica, Marco. È perché le batterie del telefono, che adesso non si possono più togliere, perché sono interne. Hai visto cosa la zozzeria che hanno fatto con i telefoni di nuova generazione? Sì, portatili uguali, i computer portatili sono dietro una lapide, mentre i vecchi avevano con le viti, no, lo sportellino per cambiare la disk, cambiare la RAM, cambiare altri componenti, la batteria, lì è una lapide, la batteria è come quella del cellulare, è chiusa dentro, devi smontare tutto il computer per cambiarla, capito? Io mi ho comprato un SSD e dopo mi ha venduto il portatile, il Dimpettaion. Se lo sapevo me ne ordinavo due, diventa un missile. Sì, l'SSD è, caspita, rispetto all'hard disk è più performante, più immediato, è quasi brutale come velocità. Io ero abituato all'hard disk vecchio pure, non vecchio, vetusto. Mi ha entrato Gianni, così stacco io. Gianni? Io gliel'ho messo. Se lo sapevo ne ordinavo due, me lo mettevo. Ma vabbè, adesso vediamo un po'. Io ho comprato un Samsung 870 Evo, di qui, ed è di lusso, non si guastano mai, ha detto il Dimpettaio, capito? Ma tu Gianni ti chiami, ehi, Gianni riprendi tu, riprendi voi che io devo fare bianco. Ciao, a dopo. Sì, ciao Marco, Quoco ma che non sei riato, mi è sopra popolare. E chi io? E ha detto avanti Gianni, e mi hai convitato in sopra. Non l'ho sentito, mi dispiace. Che dovrea devi dire? Oh, Natalia. E te lo dizendi che va, devo andare su io, perché devo preparare la roba a Tyson, perché quello mangia roba cucinata, la usai come te, e le faccio un po' di rene con la pasta e le crocchette. Anche le crocchette le devo andare a comprare perché sono preferito. Vabbè, dai, se dovete chiudere me ne passo anch'io in stand by. Ci sentiamo alle prossime, non c'è problema, là. Grazie per le quattro chiacchiere a tutti e due. E ci sentiamo alle prossime, cosa vuoi ti dica? La 50 mi ha portato il caffè intanto. E così siamo alla grande. Mandato te l'avevo la fotografia delle caramelle già. Sì, che me l'hai mandata, quella la melanzana, sì, che me l'hai mandata. Già sono buone così. Io le faccio barro. Va bene. Io le faccio barro se sulla graticola, quando andavamo con l'Antonio, tutti fatti in greffa. Cazzo che erano i buoni. Le spacchevamo, poi le mettevamo là, le prezzemolo, il peperoncino in mezzo. E vai che ce n'è. Infatti, vai che ce n'è. Però così sono più buone. Vogliono farti l'abbraccio, però le devi fare come le ho fatte io. Qua, sai vedo ma fare mai niente. Già è poco buono già, così. Sì, anche quando lo facevamo noi sembrava erano morbidi e morbidi, proprio c'entravi la forchetta dentro e le pulivi, le rimaneva la buccia solo. Perché le devi mettere l'olio santo con quel peperoncino al centro degli spacchi, mi capito? In modo che continua già a vedere. Io ne ho messo poco perché non si sa mai che mi si accendono le toppe a me, capito? Non mi vi da servire un bevarone. No, io già l'ho messo anche nel sugo, ma gradatamente, non molto, un pochino per dare il sapore. Anche io, non mi fidano, perché a me io ho quel difetto lì, mi si accendono le toppe purtroppo. Se ne metto molto, se vuoi arruinarlo. Adesso sono da un bel po' che non ne vedo. Perché basta che mangi regolato, non mangi roba piccante, roba salata, fritti, tutta questa roba qua che fa venire quella roba lì. Io la verità l'ho avuta una volta solo, ma per poco. per pochi giorni, là. Due o tre giorni mi sono passato, forse non eravamo come un rudi, ma mi bruciava di brutto. Quando è così è brutto, Io ne metto poco, tanto di dargli il sapore, noi non si buciano i fini in bocca, che se non la buccia. Oltre a non potersi mangiare. Non dura neanche due giorni quello messo. Aspetta. Cosa ti stavo non dicendo? Ecco qua, tu dai, così va bene. Tieni. Va benissimo così, già, mettene poco, perché il troppo sturpi, è proprio vero. Sì, infatti mi viene aggravato, tutte le cose sono così, non c'è tanto invizia troppo a te, mi sa, un caffè in chi mi dà regalo? E allora? È perché mi ama, non è per altro. Quando vada bravo, ma se no, sarei buono a mandarmi gli subaesi. Ma non ti fa, non ti fa dormire il caffè, oppure non ti fa niente? Non mi fa niente a me, no. Invece c'è mia nipote, per esempio, come si prende un caffè a Trimuroni, subito. Ci sono quelli che non gli va il caffè. Se prendono appena un caffè, addirittura Trimuroni lo va lì a farlo. Non ne piglia mai. Vabbè, il Trimuroni viene quando c'è la glicemia bassa. E me ne accorgo subito io. Mi sento questo tremolio, vado, mi prendo subito una mela, me la mangio e sto meno. Io lo so che tu te ne accorgi quando ce l'hai bassa, e a me non mi è mai successo, quindi non lo so. Io bisogna che me la misuro per sapere qua quanto ce l'ho. Sta a 94 l'altro giorno, a 75 l'ultima volta. Figurati, a te si abbassa un bel. Sì, ma dipende sempre da quello che mangi, magari tu fai la stessa insulina per una cosa che non ha zuccheri, non ha carboidrati e ti si abbassa di più, capito? Quello sì, bisogna stare attenti a quello che mangi. Sì, vabbè, dai, è andata di farlo, perché se no il cane lo riportasse e non trova da mangiare, dai, e faccio qualcosa per lui, così almeno mandi che giù papà e fa da bravo. Ciao Natali, buonanotte. Ciao, altrettanto, alle prossime, dai.